La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon giovedì, pomeriggio fine di ottobre, l'ultimo giorno. Mi raccomando, continuate a seguirci in podcast, stiamo salendo nelle graduatorie, tutto merito vostro, non posso che ringraziarvi. E la trasmissione di oggi è dedicata a un'amplissima fetta della pubblica amministrazione, di cui però si finisce per parlare un po' poco. E lo spunto ce l'ha dato ieri una notizia che abbiamo trovato sul Gazzettino, sui giornali veneti, ed era ogni tanto, no? Capite, nel congerie di notizie pubbliche di solito improntate al pessimismo, alle tasse che salgono, al credit crunch, alle imprese che chiudono, ogni tanto anche dal recinto pubblico viene qualche buona notizia. E qual era questa buona notizia? Era una notizia che non fa testo, perché è un'eccezione, almeno da quel che so io, ed è relativa al fatto che delle 71 società partecipate e controllate di secondo livello dalle 10 maggiori società di primo livello controllate dalla Regione Veneto, quindi 10 società di primo livello che ne controllano altre 71, ebbene di quelle 71 la Giunta regionale veneta, per una volta in un paese in cui niente si può tagliare, tutto è indispensabile, la Giunta ha deciso di cederne e chiuderne 38 su 71, 38. E allora di fronte a questa notizia che utilizziamo semplicemente per trarne spunto, ho deciso, va bene che già Zaia stamattina era ospite qui, ma ho deciso che non mi interessava tanto parlare con il politico, gliene rendo merito, ma volevo occuparmi, partendo da questa notizia che ripeto non fa testo, per una riflessione insieme a voi in ascolto sull'oceano delle società controllate e partecipate dallo Stato centrale, e ovvio quelle conoscete, le maggiori quotate, l'ENI, l'Enel, Finmeccanica, quelle non quotate, le Poste, la SACE e così via. Il problema è che c'è un oceano i cui numeri sono incerti, non abbiamo neanche diritto a una anagrafe pubblica che venga regolarmente aggiornata, che ci dia l'idea di quante migliaia sono le società di primo e secondo livello controllate dallo Stato persona, ma nelle sue articolazioni periferiche, nelle autonomie locali. E proprio pochi giorni fa si è andati a ripescare il dato più aggiornato, che risale al 2012, della banca dati per la pubblica amministrazione. È una banca dati che in teoria comprende tutti i dati che gli enti sarebbero obbligati da anni a comunicare ogni anno al tesoro, tranne che naturalmente per loro non c'è una sanzione se non lo comunicano, quindi molti semplicemente se ne fregano. E secondo i dati del 2012, l'oceano delle società e degli enti e dei consorzi pubblici totali ammonta al 7.800 diverso aziende, con una crescita dell'8% rispetto al 2011, anni di crisi, quindi altro che diminuzione. Società attive naturalmente in tutta la più ampia panoplia dei servizi pubblici e società in cui quelle che di loro, un numero ancora inferiore, hanno comunicato i costi del personale, i soli costi del personale di una parte di queste 7.800, che sono una parte del tutto, sono un punto di PIL, cioè 15 miliardi di euro. Ecco, allora partiamo da questa fotografia che sappiamo non essere fedele, e con un esperto che si occupa da anni di radiografare e studiare il, come lo vogliamo chiamare, capitalismo municipale oppure socialismo municipale, ecco, insieme a lui io gli farò delle domande dopo averlo presentato e averlo ringraziato, perché voi in ascolto possiate capire, primo, se è vero o non è vero che non si può centralmente intervenire su queste cose, perché voi sapete, titolo quinto, se in qualche misura bisogna rassegnarsi al fatto che tutte le volte che lo si è provato a fare è rimbalzata la faccenda in questi anni, oppure se esistono strade da percorrere e il motivo per cui non vengono percorse, per accorpare, razionalizzare, per ottimizzare l'offerta di servizi in ambiti ottimali di mercato, per tentare di aprirsi alla concorrenza e così via. E quindi io vi presento il nostro ospite per parlare di questa svariatissima migliaia di società italiane a controllo pubblico, è il professor Carlo Scarpa, che insegna economia all'Università di Brescia, ha scritto anche un libro, Comuni SpA, capitalismo municipale in Italia. Grazie professore di essere con noi. Ma è il piacere mio, buonasera a tutti. Allora, cominciamo da proprio dalla possibilità di intervenire, perché è ovvio che molti ascoltatori dicono ma come, ci chiedono più tasse eccetera eccetera, qui non ci sarebbe da intervenire. Eppure solo negli ultimi 2 anni, se andiamo a vedere, dopo il referendum sull'acqua che riguardava un settore di offerta di servizio pubblico, sia nel 2012 sia nel 2013 la Corte Costituzionale è intervenuta con più sentenze proprio per cambiare e picchettare la disciplina di apertura alla concorrenza. Dopo il referendum sull'acqua c'è tutto un tema, perché molte volte si ricorre ancora all'affidamento in house e non alle gare, e nel 2013 sui limiti proprio di rientro, di cessione per abbattere i costi che erano stati posti dal governo Monti per le società controllate dalle regioni, anche in entrambi i casi la Corte Costituzionale ha detto no, voi non potete dal centro. È proprio così, cioè il titolo quinto impedisce ogni possibilità di intervenire? Ma lo dicono i giuristi, lo dice la Corte, ahimè, temo che in buona parte sia vero. Quanto vero sia vero in modo diretto, non posso impedirti di farlo, posso però creare le condizioni alle quali tu poi non riesca effettivamente a farlo, che è quello che qualche americano chiamava starve the beast. Affamare la bestia. Affamare la bestia, ovvero il patto di stabilità. Se io ti impedisco di spendere, se io ti impedisco di contrarre debiti, eccetera, eccetera, apri pure tutta la società che ne voglia, però più danno di tanto non riuscirai a fare. Ma se lo Stato non riesce neanche a sapere quante sono? Ma che siano poche o tante, uno può anche dire non mi interessa. L'importante è che il carico complessivo sulla collettività sia all'interno dei parametri del patto di stabilità. Patto di stabilità che ovviamente poi in uno Stato di brave persone, con amministrazioni pubbliche fatte effettivamente per il cittadino, non sarebbe neppure tanto necessario, ma diventa assolutamente necessario nel momento in cui, in assenza di quel patto di stabilità, sistematicamente le amministrazioni locali penserebbero ad abusare e a sfondare fondamentalmente qualunque tipo di vincolo di bilancio. Senta, ma omogeneizzare e diminuire il numero degli amministratori, un ascoltatore chiedeva, ma quanti sono i politici trombati? Secondo questa anagrafe parziale, gli amministratori, i membri dei consigli di amministrazione di questa società sono un esercito di 19.000 persone, e ci sono consigli di amministrazione con i seguenti numeri, cioè il consiglio di amministrazione di ERA di Bologna sono 56 persone, il consiglio di amministrazione di IREN sono 42 persone, il consiglio di amministrazione del consorzio della CEA Pinerolese sono la bellezza di 50 persone. Come potete immaginare voi in ascolto, numeri ottimali per poter gestire bene una società. Ecco, almeno in queste cose, come mai, secondo lei, professore, lei ha visto tutti i tentativi di questi anni? Sì, ma lì il problema è semplicemente dire facciamo una norma e poi facciamola rispettare. Voglio dire, ci sono anche le norme per l'incompatibilità tra, che so, la carica di senatore e quella di sindaco, cosa, eccetera, eccetera, ma se nel momento in cui si presenta il caso poi nessuno fa rispettare questa norma, le norme restano sulla carta. E lo stesso vale qui, il problema è che le norme le dovrebbero fare rispettare sostanzialmente non dei magistrati in questo caso, ma degli organismi politici, e questo è il grosso problema. Per cui fai dei consigli di amministrazione che sono contro legge, ma nessuno ti dice nulla. Quindi lei dice, in realtà, al di là dei limiti della legislazione sovrapposta e scoordinata sulle competenze, è una questione di volontà, se capisco bene. Assolutamente è una questione di volontà. Voglio dire, se c'era anche quella norma che vietava di porre nei consigli di amministrazione negli organi amministrativi delle controllate politici trombati, ovvero persone che negli scorsi X mesi avessero ricoperto cariche, eccetera, eccetera, di recente, non tanto di recente, sono c'è stata una delle più grosse cosiddette municipalizzate italiane, che beneficiando del sistema duale, cioè il fatto di avere da un lato il comitato di gestione e dall'altro quello di sorveglianza, ha messo nel consiglio di sorveglianza uno che era appena finito di fare l'assessore. Perché? Ma invocando il fatto che in realtà il consiglio di sorveglianza non è proprio un organo amministrativo, come sarebbe a dire non lo è. Lo è assolutamente, però c'è sempre il giurista che ti fa il parere e ti consente di farlo. Finché nessuno impugna questa cosa, le norme restano completamente disapplicate, anzi, come dire, soggetti a illusione e a sberleffo. Allora, torniamo tra pochissimo col professor Scarpa, stiamo parlando dell'oceano, delle società pubbliche controllate in tutta Italia, adesso però le informazioni stradali. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:46, primi 44 secondi, le 7800, ma non sappiamo davvero quanti sono, società e consorzi pubblici in cui si articola la presenza in amplissimi settori del mercato della mano pubblica, una presenza in aumento, almeno l'8% in aumento delle società nel 2012-2011, malgrado la crisi. Professor Scarpa, in tutti questi anni alle spalle, dove si è detto, io non sono d'accordo che avrebbe ispirato questa specie di pensiero unico neoliberista, e vediamo che invece lo Stato è sempre cresciuto, però su un tema fondamentale, almeno quello di che cosa mettere a gara e in che tempi, anche lì si è rimbalzati, non solo per il settore dell'acqua, lì si sono pronunciati i cittadini, non voglio dire niente, ma in tutto il resto, anche dopo gli interventi della Corte del 2013, la realtà è che l'affidamento in house continua a essere molto praticato. Ma continua a essere molto praticato, anche perché purtroppo la Corte Costituzionale ha avuto atteggiamenti un po' ondivaghi. Quando si dice ad esempio che anche il Consiglio di Stato, altro organismo importante che ha avuto un ruolo piuttosto negativo a riguardo, perché? Ma perché è andato a dire che in sostanza l'interpretazione corretta del referendum è che i cittadini vogliono meno privato nei servizi pubblici, non solo quello del referendum sulla tariffa idrica, ma anche quello sui servizi pubblici locali, quello che, come dire, privilegiava la gara. E alcuni giuristi cominciano a dire: ah, questo significa in sostanza che la gara è l'eccezione, mentre l'affidamento in house dovrebbe diventare il modello standard per l'affidamento di servizi pubblici. Io spero che questa interpretazione alla fine sarà smontata da successive determinazioni del Consiglio di Stato e magari delle Corti Costituzionali, però è a tutt'oggi purtroppo un'interpretazione legittima che spinge molte amministrazioni pubbliche esattamente in questa direzione. E poi tira una grande aria dei cosiddetti beni pubblici, facendo una grande confusione giuridica, filosofica ed anche economica, perché l'economista americana che ha vinto anche Nobel per i suoi beni comuni non parlava esattamente di quelli che oggi vengono serialmente definiti in maniera sempre più ampia e impropria beni comuni. E sì, proprio la difesa delle municipalità e delle tante società controllate a livello locale vive anche di queste cose, non solo di interpretazione giuridica. Abbiamo due telefonate, sentiamo subito Raniero da Rimini. Prego Raniero. Salve, buonasera. Buonasera. No, sto ascoltando la vostra in macchina, la vostra trasmissione, la quale la seguo tutti i giorni quando giro abbastanza. No, io sono un consigliere comunale di un comune di Verucchio di circa 10.000 abitanti e presidente di una commissione speciale di controllo su una municipalizzata nostra che abbiamo. Sì. Ecco, premetto che comunque noi, come voi sapete, il nostro è un'attività gratuita, non abbiamo rimborso spese, abbiamo gettoni di presenza, lo facciamo con pura passione della politica. Nei piccoli comuni questo va dato atto che funziona così. Questo è. In più volevo dire, nei grossi numeri, ad esempio, non so se voi avete seguito il fallimento di una società del comune di Forlì, dove questa comprava terreni, li vendeva, li rendeva edificabili via, con un buco di 120 milioni di euro, però è già stata dichiarata dal Tribunale di Forlì. Però. Allora io mi chiedo, no, lo Stato di fronte, come può permettere che succedano queste situazioni Però Raniero, lì il problema è più che lo Stato centrale, lì il problema è il comune direttamente. Bisogna immaginare che la politica a livello locale, sulle sue controllate, faccia quello che spesso vediamo. Cioè, voglio dire, che a Roma, tra ATAC e AMA, cioè una delle aziende di trasporto e quella che si occupa dei rifiuti, ci siano più di 20.000 dipendenti e più di 140, sommandole, dirigenti di prima fascia. Lì è la politica di Roma, dei diversi colori, che ha la responsabilità negli anni. Quindi lo Stato, individuiamo, in quel caso, secondo me, Forlì, Raniero. Sentiamo Roberto ci chiama da Bologna, prego. Buongiorno, mi chiamo Roberto Fazioli, professor Scarpa, mi conosce molto bene. In realtà io penso che il dibattito che state sviluppando sia francamente mal posto, perché state ponendo in confronto dei modelli generali e non dei risultati. Attenzione, laddove si è privatizzato le tariffe sono aumentate, così come gli extra profitti e le posizioni di monopolio privato in questo caso. Lei peraltro ha citato erroneamente dei casi, ERA e IREN, che sono società privatizzate, non pubbliche, non sono municipalizzate quelle, attenzione. Io ho fatto una proposta che mi ha pubblicato la rivista della Bocconi, una proposta molto semplice, che è: mettiamo a gara tutto ciò che è inefficiente, senza guardare che sia pubblico o privato. Mi sembra una proposta semplice, facile, che coglie gli obiettivi, mi spiego, ma non si può semplicemente demonizzare un modello piuttosto che un altro. Rimarco il fatto che negli Stati Uniti d'America l'80% delle gestioni locali dell'acqua è in mano agli enti locali. Roberto, io non volevo riaprire una questione sulla quale io ero presidente di un comitato referendario, quindi si figuri, anche perché all'epoca ho tentato di spiegare che il problema è quello di remunerare gli investimenti, visto le perdite che ci sono nella rete di acqua pubblica, e per chiudere il ciclo del trattamento delle acque reflue, che come si vede le gestioni pubbliche non hanno da investire e anche loro aumentano le tariffe. Però non ho intenzione di dire questo, tranne che mi dispiace dirmi che ho impropriamente citato società che non sono privatizzate, sono quotate, ma continuano ad avere un controllo pubblico. Ecco, qui è proprio una questione, capisce, di principio, perché per me si può quotare una società, ma se il controllo continua a essere pubblico, quelle sono il recinto pubblico, perché to go public, cioè chiedere i capitali al privato, se non si dà la gestione al privato, come maggioranza dei componenti d'amministrazione o nel duale eccetera eccetera, e cioè l'indirizzo e il controllo sono privatizzate, quindi sono i titoli e così via, ma rimangono controllate pubblicamente e quindi a buon diritto dalla banca dati PA da cui sono prese queste citazioni ci sono anche quelle società. Dopodiché è ovvio che bisognerebbe parlare di chi fa meglio, di chi fa peggio. Il problema è che qui non c'è una maniera di intervenire. Le faccio una domanda che giro a Carlo Scarpa, non a lei. Abbiamo letto in questi anni, per esempio, che poteva venire una convergenza spontanea da parte delle maggiori, proprio delle utilities privatizzate, come dice lei, e come dico io, quotate, ma ancora a controllo pubblico, che avremmo fatto una grande RWE tedesca, si sarebbero fuse, avrebbero ottimizzato la loro sinergia, avremmo costruito un altro grande attore europeo addirittura. Ci sono riuscite, IREN, ERA, Torino, Genova, Milano, abbiamo visto, Milano e Brescia si sono ridivise nell'energia. Carlo Scarpa, come mai sono mancati gli incentivi per creare una RWT tedesca in Italia con le loro fusioni, oppure semplicemente la politica non rinuncia al controllo locale? Ma sicuramente è vero che la politica non rinuncia al controllo locale, se non quando è costretta. Adesso ad esempio in A2A si parla della cessione di qualche quota da parte dei comuni, semplicemente perché devono far quadrare i bilanci. Di nuovo affama la bestia, se no rimaniamo al punto di partenza. Dopodiché il modello RWE è un modello sostanzialmente di impresa energetica. Cioè, sì, qui continuiamo ad avere invece delle imprese che controllano il territorio e sullo stesso territorio pretendono di dare elettricità, acqua, gas, rifiuti, eccetera, che sono dei settori molto diversificati tra loro, molto, che hanno delle logiche diverse, in alcune delle quali è facilissimo fare concorrenza e lasciare spazio al mercato, in altre forse la presenza pubblica ci potrebbe anche avere un suo senso, ma pretendere di trattare tutti questi settori esattamente nello stesso modo, con una presenza pubblica forte, presenza pubblica che oltretutto non può che essere nemica della concorrenza. Esatto, perché? Esatto. Ma perché nel momento in cui arrivasse qualcuno a portare via non so, ad A2A la concessione della distribuzione gas a Milano, scherzi. E qui ci sarebbe un lungo discorso da fare sulle prossime gare per i bacini ottimali del gas, ma non lo faremo perché il tempo è finito. Grazie al professor Carlo Scarpa, a tutti voi appuntamento a domani, anche se è festa.